Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, benvenuti, vi aspettavo, sono le 11.09, abbiamo Peter Bescape in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione e come sempre i titoli del nostro sommario. Il bambino dagli 0 ai 3 anni, prime pappe, primi passi e prime parole. Epatiti, una giornata dedicata all'informazione. Mamme, cullatevi con lo yoga. Bene, sì, oggi una puntata dedicata alle mamme e ai loro bambini per parlare di primi passi, prime parole, prime pappe. Se avete dei bambini in questa fascia d'età, diciamo dai 6 mesi ai 3 anni, chiamateci per raccontarci di loro. Questo è davvero un periodo di grandi cambiamenti. Da mamma dico godetevelo, perché è davvero meraviglioso accompagnare il proprio bambino per mano alla scoperta del mondo. 800 24 0024, il nostro numero verde è già a vostra disposizione, così come il numero per inviare i messaggi al 349 238 6666. Uno studio affollato, per me è festa, ho tanti ospiti che sono venuti a trovarci. Abbiamo 3 mamme e 2 esperti. Direi di dare la precedenza alle mamme e chiedo a loro di presentare quindi anche il loro bambino. Do subito il benvenuto a Sara. Ciao. Allora Sara, che allora, mamma sei? Io sono Sara, ho un bambino di 2 anni, quindi da poco abbiamo passato alla fase del primo anno che tutti dicono essere un traguardo importante. Siamo entrati invece in quelli che sono i terrible twos, che nessuno ti dice prima sono terrible, ma poi lo scopri. E quindi è l'età dei no, del vasino, delle prime corse, dell'imparare un sacco di cose, ed è importante sapere come star vicino bene in questo momento. Assolutamente. Sentiamo Veronica invece, benvenuta intanto. Grazie, buongiorno a tutti. Io sono Veronica, ho 2 bambini. Un bambino che ha appena fatto 3 anni e quindi abbiamo appena finito The Terrible Twos per cominciare The Terrible Threes. Scusate l'inglesismo. E poi una bambina secondogenita di 14 mesi che invece sta facendo il suo primo periodo, che secondo me è meraviglioso perché essendo secondogenita io lo trovo molto più facile che con il primo figlio. O forse perché è una bambina. Ma tutte e due. Tutte e due. Tutte e due. Andiamo a Yolanda. Buongiorno, sono Yolanda. Io ho 3 bambini. Che sono un pochino più grandicelli, c'è Matilde che ha 10 anni, Tommaso 7 e Aurora 4, ma ho un po' rimpianto di quelli che erano i problemi dei bambini, diciamo così, più piccoli, perché piccoli, piccoli problemi, grandi problemi. E pensa, quindi io che ne ho una di 20 e una di 18, quindi non apro il libro, ma vengo subito a presentare i nostri esperti che oggi sono qua in studio con noi per parlare dei progressi dei nostri bambini, ma anche delle difficoltà che normalmente incontrano nel loro percorso di crescita, per tutto quello che concerne il movimento e il linguaggio, quindi per le prime parole, per rifarci al titolo, e i primi passi, che sono anche saltini, corsette, capitomboli. Abbiamo la dottoressa Veronica Saletti, neuropsichiatra infantile all'Istituto Bessa di Milano. Buongiorno e bentornata. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. Per tutto quello che invece riguarda svezzamento, vaccinazioni, controlli, dentini, rotolini, pannolini, ci affideremo al professor Luca Bernardo, direttore della divisione pediatrica dell'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano. Bentornato anche a lei. Grazie, buongiorno a tutti. Come si trova in questo gineceo a suo agio? Devo dire di sì, ma è sempre una grande emozione vedere negli occhi la felicità delle mamme quando parlano dei loro bambini, e credo che questa sia la cosa anche più bella da vedere, non solo come uomo ma da pediatra. È vero. Senta, lei che le mamme ne frequenta, perché di solito sono le mamme a portare il bambino dal pediatra, o sbaglio? Di preferenza sì, devo dire che ultimamente si vedono anche i papà, anche perché ci deve essere un'alleanza che è fondamentale nella crescita del proprio bambino. La mamma è fondamentale come il papà, spesso però ancora oggi sono sempre le mamme che gli stanno dietro, pur essendo donne lavoratrici. Professore, le mamme lei le trova cambiate negli ultimi tempi? Da quanto tempo è che lei fa il pediatra? Ormai sono circa 15 anni, quindi dopo un'esperienza negli Stati Uniti sono ritornato in Italia. E in questi 15 anni sono cambiate? Direi di sì, sono molto più attente, ma poi stanno utilizzando come un po' tutti internet, e quindi si è globalizzata anche l'informazione, il passaggio di informazione, soprattutto l'alleanza che tra mamme si crea all'interno per esempio dei blog. Infatti proprio in questi giorni siamo andati in internet e ci siamo resi conto che le mamme si sono, come diceva il professor Bernardo, organizzate, hanno creato un movimento, il mobby blogging, che assolve a molte funzioni che un tempo forse erano di competenza casa delle nonne, delle nostre mamme, e Sara, Veronica e Yolanda fanno parte di queste mamme, quindi delle mamme in rete. Yolanda, raccontaci, chi è, che cosa fa una mamma blogger? Allora, va bene, la mamma blogger, prima cosa, appunto, si apre un blog. Sì. Ok, spinta, per carità, i motivi che spingono le mamme a scrivere sui blog possono essere tantissimi, però molto spesso è dovuto al fatto che appunto quando ti ritrovi questo bambino in braccio, soprattutto il primo, spesso non sai come prenderlo. Uh-huh. Oppure spesso eri una mamma lavoratrice, sempre in giro a incontrare tante persone, e all'improvviso ti ritrovi chiuso in casa comunque, perché il bambino ti obbliga a certi ritmi, certe cose più lente. Ti ritrovi chiuso in casa da solo e magari hai dei problemi perché non sai come gestirlo. Allora queste mamme aprono il computer e si lanciano nella rete. E ultimamente devo dire che trovano delle cose, cioè dei siti che le aiutano proprio. Tipo, non so, social network di mamme, oppure altre mamme che hanno aperto i blog. E quindi si crea quello che una volta era il villaggio, no? Invece di trovare la mamma, cioè uscire con la carrozzina in giro nelle grandi città, ai giardini, brava, adesso magari si ritrovano in rete, chiacchierano. E noi la rete oggi la portiamo in radio, facciamo 824-0024, un invito che rivolgiamo alle mamme naturalmente, che navigano, che sono blogger, alle mamme invece che non hanno conosciuto, non hanno sperimentato questa esperienza. Invitiamo anche i papà, perché come diceva il professor Bernardo, anche loro stanno svolgendo e sono assolutamente importanti. Io inviterei anche le nonne, ma Veronica. Volevo semplicemente aggiungere che ultimamente stiamo conoscendo diversi papà blogger. Veramente? Sì. Se la cavano bene. Sì, anche perché sono molto coccolati in quanto pochi. Pochi, quindi le mamme. Molto conosciuti dalle mamme e anche un po' invidiosi del fatto che noi magari passiamo alla vita reale incontrandoci, vedendoci, e vogliono essere invitati anche loro e partecipare anche loro. Allora, insieme alle nostre mamme, noi approfitteremo dei nostri esperti, perché porteremo proprio qui in trasmissione i temi, i problemi, gli argomenti di cui discutono le mamme in rete e non in rete, perché le mamme hanno anche, per fortuna, anche degli spazi in cui confrontarsi. Penso ai giardini, il momento in cui si va a accompagnare il bambino al nido o all'asilo. Ma tra l'altro, parlando di mamme in rete, voglio segnalarvi un appuntamento importante che avrà luogo proprio sabato 23 maggio a Milano, qua in via Monterosa 91. Si chiama MAM 2009, è realizzato in partnership dal gruppo 24 ore e Fattore Mamma, e sarà un'opportunità per confrontarsi su uno dei temi, l'abbiamo già in parte un po' accennato il professor Bernardo, più cari alle mamme, che sono quelle di conciliare maternità, figli e lavoro. Una giornata che si dividerà in due appuntamenti importanti: uno che avrà modo, al mattino ci saranno una serie di incontri con esperti, il mondo istituzionale, che per avere anche indicazioni concrete e operative a tutte le mamme sui servizi a disposizione per appunto conciliare queste due dimensioni. Al pomeriggio invece più dedicato all'incontro tra mamme blogger. Allora io approfitto di Sara per chiedere quali sono i temi che dibattete di più, che vi più caldi, così facciamo subito a lavorare i nostri esperti. Allora, come sicuramente accade a tutte le mamme, i temi sono quelli del giorno per giorno, cioè io credo che sia sempre la giornata, da come inizia il mattino, che un po' ti porta a concentrarti su certe fasi della crescita, per cui sicuramente quello a cui si accennava prima, ad esempio lo svezzamento, è un tema molto dibattuto in rete. Io stesso mi ricordo che quando ero alle prese con le prime pappe c'erano tante domande per cui oggettivamente non mi sentivo di disturbare il pediatra, per cui le ponevo in rete oppure andavo a cercare le risposte in rete. Devo dire che ho sempre trovato delle informazioni molto concrete. Molto, ecco. Concrete. Pratiche. Pratiche. Professor Bernardo, praticamente lei ha una sfida. Vediamo se lei ci risponde e riesce a dare delle indicazioni concrete. Le nostre mamme blogger sono qui, che le fanno una sorta un po' di esame. Vediamo se il professor Bernardo ci dice tutto, quattro re tutte ancora di più sullo svezzamento. Ma lo facciamo un po' a flash, come, quando, perché svezzarli? Esatto. Dunque, intanto il consiglio del pediatra, anzi faccio un passo indietro, il pediatra ricordiamo sempre che deve essere come tutti gli altri medici, a disposizione del proprio paziente, in particolare il pediatra credo che sia quello con cui si debba avere maggior feeling e quindi avere quella tranquillità anche di non disturbarlo, perché non viene disturbato, ma di chiedere piuttosto che fare dei piccoli errori o piuttosto che avere i dubbi. Quindi non sentitevi assolutamente liberi di chiamare il vostro pediatra, se no piuttosto cambiatelo. Questo è un altro consiglio. Quando parlavo prima di donne lavoratrici, volevo fare un flash indietro, parlavo anche delle mamme, cioè coloro che fanno lavoro di mamma, perché spesso si viene dimenticato e a volte anche gli stessi papà tornando a casa dicono: ma cosa hai fatto tutto il giorno? Abbiamo fatto la mamma, è un lavoro pesantissimo. Diciamo che il consiglio del pediatra, ma anche di quelle già che sono... Già ci sta conquistando un po', eh? Però è già sposato, è quindi va bene, è stato bene. Tutto, non so se sa perfettamente la ricetta per le lenticchie, che era il tipo di domande che io ponevo in rete, che non mi sentivo. Dunque, per quanto riguarda il divezzamento, il consiglio del pediatra, ma anche di quello che è l'Organizzazione Mondiale della Sanità e delle società scientifiche, è di divezzare, quindi passare da quello che è il latte o materno, artificiale o misto, a secondo del tipo di allattamento, alle pappe dal sesto mese in poi, perché sono necessarie per avere alcuni nutrienti che nel latte sono carenti, per esempio il ferro. Quindi dal sesto mese in poi i bambini possono e devono essere vezzati. Si inizia gradatamente con la mela grattugiata, come, oppure adesso ci sono dei cambiamenti, e poi mela grattugiata per fare un po' prendere confidenza col cucchiaino, e poi le pappine. Allora, intanto una regola fondamentale, un consiglio importante da dare subito alle mamme, è introduzione di un alimento alla volta. Questo per evitare rischi o per evitare, per esempio, che un alimento possa essere allergizzante per quel bambino, e quindi avendone introdotte magari in quel momento più di uno non si capisce poi quale possa essere e quindi bisogna tornare indietro. Certamente si può iniziare qualche tempo prima, come diceva giustamente la nostra Carbone, con il cucchiaino, con qualche mela, con la banana, con la pera. Queste sono un po' le frutte nei primi mesi di vita. Ma sicuramente bisogna partire con la preparazione del brodo vegetale, con all'interno la crema di riso, il mais, la tapioca, quindi che tutti voi conoscete, introducendo poi pian piano quello che è un alimento alla volta, ma dalla carne. 824 0024 se avete bisogno di un consiglio dei nostri esperti, ma volete confrontarvi soprattutto con le nostre mamme blogger. Che volevo chiedere, ma secondo lei questi cucchiaini che si trovano in commercio, che destano molta ammirazione e anche invidia tra le mamme, che sono tutti performanti, dal caldo al freddo, gommosi, sono davvero necessari in questa fase dello svezzamento oppure no? Direi che l'unica parte importante è introdurre l'alimentazione, il rapporto che si crea tra la mamma e il proprio bambino, perché ricordiamo che il divezzamento è un momento importante non solo dal punto di vista nutrizionale e di prevenzione sulle malattie future, ma un momento importante di quella diade che è fondamentale, che inizia con l'allattamento e da proseguire anche col divezzamento. Io credo che fanno sicuramente bene al commercio, quindi a chi le vende. La mamma, devo dire, che può decidere come non di non prenderli, nel senso che tutti noi siamo cresciuti col cucchiaino di plastica, di metallo. Sì, però siamo può essere grandi. Utile. Esatto. Vorrei coinvolgere anche la dottoressa Saletti a proposito dei primi passi di nostro figlio. Proprio cercando un po' nei blog delle mamme, mi sono accorta che una delle domande che si fanno più spesso è relativo al tempo in cui questo passaggio dovrebbe avvenire. Molte scrivono orgogliose, lo stanno già facendo anche via SMS, di quanto il loro bambino sia sveglio, precoce. Altre invece scrivono un po' spaventate, anche se il termine non è corretto, perché hanno paura che il loro bambino sia un po' in ritardo, perché è un po' goffo, insomma non si alza. Io so che voi non parlate di momenti, ma parlate di fasi di sviluppo, di tappe, tappe, ecco. Ma lei che cosa ci racconta? Rispetto ai primi passi, direi intanto la prima cosa: c'è una grandissima variabilità interindividuale che è assolutamente fisiologica, come è già stato detto. Ci sono bambini che camminano a 10 mesi, ci sono bambini che camminano a 14-15 mesi. Un punto abbastanza fermo è che dopo i 18 mesi sicuramente c'è un ritardo, cioè entro i 18 mesi è compatibile con uno sviluppo fisiologico, anche perché ci sono bambini più riflessivi che magari sviluppano di più le capacità manipolatorio prassi che altri magari più attivi invece motoriamente, però darei come traguardo i 18 mesi. Veronica e poi Yolanda, come ti trovi con i problemi del movimento dei primi passi? Ma devo dire che è naturale per chi ha più figli fare un confronto continuo, ed è anche sbagliato, lo so, perché ho avuto un figlio molto magro e molto precoce nel camminare, una bambina molto burrosa che ci ha messo un pochino di più, ma secondo me perché è più pesante. Ma adesso è bravissima, abbiamo risolto benissimo la fase. Io invece volevo chiedere una cosa, professore. Per esempio, quando si deve chiudere la famosa fontanella e qual è la tappa denti, diciamo, standard, no? È un caso personale. Allora, diciamo, innanzitutto è fondamentale, ma questo viene consigliato nei reparti di neonatologia o dai pediatri di libera scelta o dal proprio pediatra, di utilizzare, quindi far assumere al proprio bambino la vitamina D, che è importante nella prevenzione del rachitismo ed è anche nella calcificazione delle ossa, quindi è un po' il cemento delle nostre ossa, di quello che ovviamente è l'osso e lo scheletro che terrà la nostra struttura in piedi per tutta la vita. Dopo questo, certamente e normalmente la fontanella si può chiudere intorno al 12° mese di vita, ma non è detta che avvenga così, può anche avvenire in mesi successivi, diciamo che generalmente entro i 2 anni di vita. Per quanto riguarda i dentini, ricordiamo che la preparazione ai denti è tra i 6 mesi e il 12° mese. Qualche mese prima avete visto anche voi che c'è questa salivazione profusa, quindi sì, sbavano tanto, per capirci. Poi voi pediatri non ci credete, ma invece noi mamme lo vediamo, che quando mettono i denti poi hanno la febbre. Loro non dicono che non è vero, però io almeno sento, le mie hanno fatto così, le mamme e delle amiche mie mi hanno detto la stessa cosa. Vediamo Maila da Bari che cosa vuole raccontarci. 824 00 24. Maila, buongiorno. Sì, buongiorno dottoressa Carbone, vengo subito alla domanda. Ho una nipotina che ha 2 anni, avrà a luglio, mi scusi, avrà 2 anni e mezzo, e la, non so se dire problema, così niente, non è che parla tantissimo, sente, ascolta, ha una capacità normale di apprendimento e tutto, però sì, ha difficoltà nel ripetere le parole, dice mamma, papà, una trentina di parole, insomma, così. Però ecco, confrontandola con altri bambini pare che parli molto meno. Come mai? Grazie Maila, bella domanda. Dottoressa Saletti. Allora, i motivi possono essere molti. Intanto ricorderei quelle che possono essere le tappe di sviluppo del linguaggio normali, tenendo conto che anche in questo caso c'è una variabilità che è notevole. Allora, i bambini normalmente dicono le prime parole tra gli 11 e i 13 mesi, e le prime parole di solito sono parole familiari che si riferiscono a oggetti d'uso comune. Intorno ai 20 mesi il lessico proprio subisce un'espansione notevole e immediata, si parla proprio di esplosione del vocabolario, quindi i bambini imparano velocemente moltissime parole. Parallelamente iniziano ad associarle, quindi fanno le prime associazioni di parole, soltanto dopo i 2 anni, più vicino ai 3, le prime frasi, proprio frasi con il soggetto, il verbo e l'oggetto. Allora, la nipotina della signora, se ho capito bene, ha 2 anni o 2 anni e mezzo? Mi sembra 2 anni e mezzo. Perché anche 6 mesi a questa età fanno la differenza, perché che a 24 mesi un bambino dica 30 parole, siamo ancora assolutamente nell'ambito della norma. Se a 2 anni e mezzo dice 30 parole, forse per 2 anni e mezzo sono un po' pochine. E in questo caso bisogna con chi bisogna parlarne? Con il pediatra? Cosa bisogna fare? Ci può essere anche un modo per aiutare la bambina ad arricchire il suo vocabolario? Che cosa può fare una mamma? Una mamma può trascorrere più tempo con la propria bambina, magari semplicemente giocando con la propria bambina e cercando di facilitare l'acquisizione del linguaggio. Come? In modo molto molto semplice, cioè rivolgendosi alla bambina con parole semplici, frasi brevi, tono di voce un po' sostenuto, magari anche enfatizzando il linguaggio, quindi caricandolo, e soprattutto cercando, cosa che viene detta poco invece che è molto importante, cercando anche di sollecitare lo sguardo diretto tra mamma e bambina. Perché lo sguardo diretto? Perché intanto lo sguardo ha un valore comunicativo molto elevato, e poi è molto importante anche il modello articolatorio, cioè il bambino guarda la bocca, guarda come viene utilizzata la bocca e si uniforma al modello. Ci sono poi delle regole invece un po' da evitare, ma magari poi ne parleremo. Perché Yolanda mi aveva già fatto un segnetto con il dito, siamo prima dei mercati, rapidamente Yolanda. No, volevo solo avvalorare la tesi, appunto, anche se non ha bisogno di essere avvalorata, della dottoressa, perché io, avendo avuto appunto più bambini, ho visto che la prima ha camminato prima e parlato molto dopo, come se lei fosse più concentrata sul camminare piuttosto che col parlare, mentre invece il maschietto più robusto di camminare non aveva nessuna intenzione e ha cominciato molto prima a parlare molto meglio, ha camminato poi all'anno e mezzo perché voleva dire alla sorella portami questo, portami l'altro, perché hanno delle era già maschio, maschio, provava già a comandare. Siamo tornati insieme per parlare dei nostri bambini dagli 0 ai 3 anni. Ci siamo occupati di questa fascia d'età, di grandi cambiamenti, ma dedicheremo altre puntate anche ai bambini più grandi, quindi dall'ingresso alla scuola materna all'ingresso dell'elementare. Insomma, vogliamo continuare a parlare dei nostri bambini, ad occuparci di loro. 824 00 24, tre mamme aggiungo mamme blogger, devo aggiungere, perché le mamme si sono organizzate, vanno in rete, si confrontano, ma anche due esperti, la dottoressa Saletti, a cui affidiamo tutti i nostri dubbi relativi al linguaggio, le prime parole, i primi passi, e abbiamo anche il professor Bernardo, unico uomo in questa sorta di gineceo, a cui invece dedichiamo tutte le nostre dubbi, le nostre domande relative a tutto quello che del nostro bambino ci preoccupa, ci interessa, ci incuriosisce, dallo svezzamento ai primi denti, al latte da dargli, a quando, a come inserirlo magari nell'asilo nido. Insomma, se volete intervenire, 824 0024. Apro una parentesi, perché oggi è una giornata importante, è la giornata mondiale dell'epatite. Come sempre, l'obiettivo di queste giornate è di fare informazione su queste malattie, che possono essere diagnosticate, possono essere curate, ma che spesso restano ancora silenti. Ci sono persone che sono malate senza saperlo. Infatti lo slogan della giornata è proprio: sarò io uno dei 12, perché ancora una persona su 12 nel mondo può essere malato di epatite B o epatite C, ma non lo sa, e questo è un grave rischio per la sua salute. Ne parliamo con il dottor Invernizzi, che è in linea con noi. Buongiorno dottore. Buongiorno. Internista ed epatologo della divisione di clinica medica, responsabile dell'unità di immunopatologia epatobiliare presso l'Istituto Clinico Humanitas. Dottore, sottolineiamo un messaggio di prevenzione per questo tipo di malattie, che dicevo, di cui conosciamo molto. Certo, vi ringrazio per l'opportunità di ricordare l'obiettivo principale di questa giornata, che le malattie di fegato a causa virale, epatite B e C, sono purtroppo ancora molto diffuse. Messaggi: la conoscenza è ancora la migliore prevenzione. La via di trasmissione ematica di queste malattie via sangue, i fattori di rischio noti sono la tossicodipendenza, le trasfusioni di sangue e di derivati del sangue, comportamenti sessuali a rischio, ma l'infezione può essere contratta anche in assenza di questi fattori. Bastano minime misure igieniche, quali usare solo le proprie forbicine delle unghie o spazzolino da denti per evitare il contagio. Oggi, come diceva lei, sono disponibili i test ematici che permettono una corretta diagnosi e in caso di infezione cure sempre più efficaci in grado di spegnere la malattia nella quasi totalità dei casi. Ma dottor Invernizzi, il fegato fa i conti anche con un altro tipo di malattie, che sono le malattie autoimmuni. Sono più rare, ma ci sono. Sì, tra le diverse cause di sofferenza del fegato c'è anche l'autoimmunità. Le malattie autoimmuni del fegato si sviluppano quando il fegato e le sue strutture vengono aggredite dalle nostre difese immunitarie. Sono tutte malattie rare, colpendo meno di un caso su 2500 persone, anche se il numero sembra in aumento. Come la gran parte delle malattie autoimmuni, anche queste del fegato colpiscono soprattutto le donne. Su 10 pazienti 9 sono femmine, solo uno è maschio. Possono svilupparsi sia in bambini che in adulti. Il motivo per cui le nostre difese impazziscono ed iniziano ad aggredirci non è ancora noto. Quello che oggi si pensa è che si sviluppino queste malattie per azioni di fattori ambientali, oggi non noti, in soggetti predisposti geneticamente. Chi ha una malattia, vorrei sottolineare che chi ha una malattia autoimmune del fegato è più a rischio di sviluppare una seconda ed una terza malattia autoimmune non del fegato, e per questo il medico che si occupa di queste malattie non deve essere solo epatologo, ma deve avere anche esperienza e competenza di immunologia clinica e reumatologia. Dottor Invernizzi, questo tra l'altro delle malattie autoimmuni del fegato è il tema dello specialista del mese di Humanitas, per cui invito i nostri ascoltatori, nel caso volessero saperne di più, di mettersi in contatto, di collegarsi con l'insito Humanitas per poter approfittare della consulenza dell'equipe del dottor Invernizzi. Grazie dottore, buona giornata. Grazie, buongiorno anche a voi. Le mamme sono veramente un vulcano di domande, di racconti, di idee, però io ho anche un papà all'ascolto. Il professor Bernardo mi chiedeva: ma i papà non intervengono? Certo, abbiamo anche i papà, e il nostro papà si chiama Sergio e ci chiama da Brescia. Buongiorno Sergio. Buongiorno. Ma che bella figura che mi fa fare con il professor Bernardo. Mi fa piacere. Bene, allora Sergio può arrivare alla sua domanda. Sì, io sentivo prima parlare di svezzamento e avendo un figlio di 6 mesi affetto da dermatite atopica, chiedevo delucidazioni su come praticamente fare questo svezzamento, perché alcuni medici ci hanno detto di farlo normalmente, quindi dal 6° mese introdurre via via gli alimenti. Sì. Qualcuno ci ha detto che invece è meglio prolungare l'allattamento per evitare appunto che questa patologia peggiori. Quindi se mi potevate aiutare. Grazie Sergio. Chissà poi se le mamme nei blog parlano anche di questo, glielo chiediamo. Ma prima, professore, che cosa può rispondere a Sergio? Dunque, la questione è a volte dibattuta, ma il consiglio che le posso dare è un po' l'indirizzo che si dà oggi, è comunque di divezzare al 6° massimo 7° mese, di proseguire sicuramente con l'allattamento sia materno che di altro genere. Quello che invece bisogna probabilmente fare, e questo col consiglio del proprio pediatra, è posticipare quelli che sono gli alimenti più allergizzanti, quindi per esempio il pesce, quindi per esempio l'uovo. Ma il divezzamento assolutamente va introdotto per la questione che dicevo poc'anzi, di introdurre alcuni nutrienti che il latte sia materno ma anche artificiale o un allattamento anche misto sono carenti, come per esempio il ferro, proprio per evitare per esempio delle anemie. Di questo parlate nei blog, ci sono, voi avete detto appunto anche che anche i papà entrano nei blog, temi relativi allo svezzamento, divezzamento anzi come suggerisce il professore, dermatite atopica, allergie, cioè le mamme chiedono anche dei consigli se vogliamo un po' medici, clinici? Sì, può capitare che facciano anche delle domande di questo tipo, però devo dire che almeno nei blog che frequento io, che conosco io, sono più delle domande di ordine pratico, sì. Tipo non so, il tipo di pannolino usato, quelle domande più mediche vanno poi più verso il pediatra. Certo. Anche... Veronica? Devo dire che ho riscontrato questa cosa, siccome io non sono una persona ansiosa, sono molto sensibile, quando invece trovo su web delle persone ansiose... relativamente ai figli, ho notato che relativamente a queste problematiche, sì, che magari la mamma da sola col buon senso della mamma non riesce a risolvere, il web a volte ha un effetto un po' deleterio, nel senso che funge un po' da amplificatore di percezione di problemi, si sentono 3200 campane, perché la domanda che ha fatto questo papà per esempio avrebbe potuto essere fatta tranquillamente in moltissimi dei siti dove le mamme si scambiano questo genere di informazione, e avrebbe potuto sollevare una decina di risposte da parte di mamma, ognuno col suo punto di vista, e poi eventualmente 2 o 3 pediatri. Cioè ho come la sensazione che a volte ci siano delle mamme molto ansiose che dopo aver sentito il proprio pediatra sentono un pediatra privato, poi vanno su internet, fanno la stessa domanda, alla fine della giornata ne sanno meno di prima e stanno peggio. Quindi secondo me anche il web, che è un validissimo strumento e che io assolutamente promuovo, deve essere però usato con buon senso, dal mio punto di vista, da parte dei genitori, ecco. Diamo la parola a Sara, che voleva ritornare, immagino, al discorso delle prime parole della dottoressa Saletti, che ha incuriosito molti nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo al 349-238-6666, ma ne parleremo ancora. Sara. Dicevamo prima delle prime parole, un tema molto interessante, anche in rete se ne parla tanto, è anche una cosa molto carina, si trovano spesso sui blog o anche sui Twitter, di cui si chiacchierava così internamente, le prime parole proprio riportate dalle mamme dei bambini, molto spesso però è una fase delicata appunto a cui si presta attenzione, e ci sono sicuramente delle difficoltà o comunque dei ritardi, dei rallentamenti di cui parlavamo anche prima. Il mio bambino per esempio, che ha 2 anni e 2 mesi, dice diverse parole, però molte sono un po' storpiate, e mi chiedevo allora se in questo caso è più utile nei suoi confronti correggerlo quando si esprime, o invece gratificarlo facendogli capire che ha detto una parola corretta. Certo, allora 2 anni e 2 mesi che le parole vengano pronunciate non del tutto correttamente, magari che siano un po' semplificate, è assolutamente normale, quindi tranquillizzerei la mamma prima di tutto. E dopodiché, come consiglio, mi sentirei di dire questo: che non bisogna mai frustrare un bambino nella sua intenzionalità comunicativa, cioè se il genitore ha capito quello che il bambino vuole dire, che sia col gesto di indicazione voglio l'oggetto prendimelo, che sia con una parola pronunciata male, non importa, è giusto che la mamma faccia capire di aver capito, perché questo altrimenti rischia veramente di far arrabbiare molto il bambino, e poi che dica sì, ho capito che vuoi la palla, banalmente, piuttosto che l'oggetto, ripetendo quindi l'oggetto che il bambino ha pronunciato male, di modo che possa sempre adeguarsi al modello, però valorizzando sempre tutta il suo tentativo di esprimersi. Ad esempio, quale parole storpia di più il tuo bambino, Sara? Erba, che dice abba, alberi, che dice arbri, acqua, dice agua. È comprensibile comunque il suo linguaggio, mi sembra, sì, di capire, perché sì, è un campanello d'allarme, quello della incomprensibilità. A 2 anni, 2 mesi può ancora succedere, ma se intorno ai 3 anni il linguaggio è fluente, ricco, eccetera, ma incomprensibile, insomma, l'incomprensibilità è sempre un campanello d'allarme. Ecco, ci siamo tornati. Yolanda, mamma blogger, voleva fare una domanda? Sì, io volevo chiedere se era normale un comportamento che aveva il mio bambino secondogenito quando era piccolo, che invertiva proprio le parole, tipo mi diceva mamma ho freddo, freddo, e voleva levare la maglia, e poi ho caldo, caldo, voleva rimetterla. Ecco, questa era la mia domanda. Sì. Dottoressa Saletti. Sì, può succedere. Poi sul bambino credo che abbia avuto uno sviluppo del linguaggio. Sì, sì, sì, può succedere. No, dottoressa Saletti, volevo qualche indicazione sui tempi. Molto spesso noi mamme, anche i papà, siamo un po' incalzanti. Invece i bambini hanno bisogno di tempo. Bisogno che si rispetti i loro tempi. I loro tempi, che sono più lunghi ovviamente dei nostri, per formulare delle risposte con i mezzi espressivi che hanno a disposizione. Quindi tante volte si tratta semplicemente di avere la pazienza di aspettare che la risposta venga data senza anticiparla, perché poi il linguaggio si sviluppi regolarmente. E ci aspetta Letizia dalla provincia di Torino. Benvenuta, buongiorno. Buongiorno a tutti. Può fare la sua domanda, Letizia? Sì, volevo fare una domanda al professor Bernardo, o se posso, può eventualmente aiutarmi una delle signore in studio, delle mamme in studio. Poi diamo anche l'indirizzo dei vostri blog, se vogliono mettersi in contatto. Sì, esatto. Bene, Letizia. Allora, approfittiamo intanto che ce l'abbiamo qua in carne e ossa dal professor Bernardo, in voce direi, in studio. Letizia, sì, faccia la domanda. Allora, io ho un bimbo di 13 mesi, Pietro, che ha iniziato il divezzamento a 6 mesi, è sempre stato un grande mangione. Adesso è un misetto che soprattutto il pranzo mangia poco, cerca di alzarsi, vuole mangiare cosa vede che mangiamo noi. Io cerco di coinvolgerlo, ma il mio dubbio è che quello che possiamo mangiare noi, che possa essere frutta, verdura, pasta, non sia sufficiente a dargli il giusto nutrimento che io ero tranquilla, certo, avesse con le sue pappe. Non so se posso collegarlo al fatto che è da un mesetto che ha imparato a camminare, per cui per lui il fatto di scendere dal seggiolone, correre, camminare. Grazie Letizia, io penso che il professor Bernardo abbia gli elementi per darle una risposta. Che fare? Allora, innanzitutto è normale che è attirato dal cibo degli adulti, non è detto che possano non mangiarlo. Seguitelo un po', ecco, stategli un po' dietro, non incalzatelo, come diceva giustamente, l'importante è che cresca e stia bene. Dottoressa Saletti, volevamo affrontare anche il discorso dei primi passi, a cui dedicheremo proprio una puntata intera, ma vogliamo dare un'indicazione alle mamme in ascolto, un anticipo di quello di cui parleremo poi in un'altra puntata? Rispetto a come favorire uno sviluppo, certo, motorio adeguato, ecco, una cosa che mi succede spesso di recente è vedere bambini in ambulatorio che vengono costretti a lungo in posizione sedute. Mi spiego meglio, bambini che passano dalla sdraietta, che viene utilizzata anche in epoche successive a quelle in cui dovrebbe essere, per cui sono state fatte, al seggiolone. E invece è molto importante che il bambino venga lasciato a terra, proprio sdraiato a terra il più possibile, a partire dai 5-6 mesi, con intorno degli oggetti, vicino alle figure di riferimento, ma perché possa acquisire gli schemi di spostamento prelocomotorio, quindi il rotolamento, il gattonamento, eccetera, che poi favoriranno l'acquisizione del cammino. Quindi il bambino deve poter sperimentare il movimento, se no non lo impara, non c'è niente da fare. Questa mi sembra sia una buona indicazione. Io invito le nostre mamme a tornare a trovarci magari prossimamente, il prossimo mese, se le mamme all'ascolto sono interessate, ce lo facciano sapere. Possiamo dedicare magari una puntata al mese proprio al confronto tra mamme e affronteremo tanti temi. Intanto io saluto le mamme blogger che sono rimaste con noi. Volete dare rapidamente il vostro sito, perché abbiamo un ospite che ci aspetta? Allora, il mio sito è Yolanda Mamma Che Spasso e l'indirizzo è yolanda.filastrocche.it. Veronica? Io sono Veronica, manager di me stessa, l'indirizzo è managerdimestessa.blog.tiscalit. Sara. Io sono Sara, www.smamma.net. Allora, un saluto alle nostre mamme, un grazie ai nostri esperti, ci sentiamo presto e baci ai vostri bambini. E chiudiamo con una pillola di benessere, ce la regala Benedetta Spada, insegnante di yoga che è tornata a trovarci. Benedetta, benvenuta. Ciao Nicoletta, salve a tutti. Allora, oggi Benedetta ci siamo occupate delle mamme e dei loro bambini. Tornerei ancora ad occuparci delle mamme per regalare a loro un pochino di relax. Sappiamo che tra figli, marito, lavori domestici, lavoro, le mamme sono sempre in prima linea, hanno bisogno ogni tanto di staccare una spina e sicuramente lo yoga in qualche modo può aiutare. Certo, non solo può aiutarle, ma può diventare un'arma, diciamo, da tirar fuori in qualsiasi momento della giornata ci sentiamo particolarmente stanche e stressate. E guarda, abbiamo un esercizio che possiamo fare veramente in qualsiasi momento e nell'arco della giornata ci può aiutare a defaticare quella zona che per le donne è sempre molto impegnativa, la zona sacro-lombare, dove soprattutto appunto le giovani mamme sentono particolare tensione. E allora ci portiamo distesi a terra, cerchiamo un asciugamano o un tappetino sul quale portarci, sentiamo in appoggio bene il tratto dorsale, portiamo in una inspirazione profonda le ginocchia verso il petto, inspiriamo ed intrecciamo le mani alle ginocchia, espirando profondamente. Sosterremo questa postura, che viene anche chiamata postura del mantice, per alcuni secondi e lasceremo che per qualche attimo la postura diventi anche un gesto, andando così a dondolare un poco verso un lato e verso l'altro, un micro movimento che va a massaggiare proprio la zona sacro-lombare. Manterremo questo quanto sarà necessario per noi, bastano pochi minuti, ma se abbiamo, tratteniamo un forte dolore, una tensione molto forte proprio nella zona sacro-lombare, io consiglio di portarci a lungo nel gesto e nella postura, e questo non solo defatica quella parte, ma ci aiuta anche a ritrovare uno stato di maggior serenità e leggerezza mentale. Benedetta, quindi questa coccola magari ne approfittiamo quando il pupo dorme? Sicuramente. E poi il movimento è quello proprio del cullare, in fondo. È proprio quello del cullare, e appunto per le mamme magari giovani che sono appunto sempre un po' sotto stress, perché prendere in braccio comunque il loro bambino a volte comporta anche un po' di impegno fisico e magari anche le notti in bianco, ecco, rilassare questa zona è proprio un coccolarci e riprendere un po' contatto con il corpo. Allora mamme, cullatevi con lo yoga. Benedetta, noi ti aspettiamo domani come sempre in chiusura di trasmissione per altri consigli. Se avete bisogno di consigli mirati, scriveteci a essere benessere@radio24.it, li chiederemo per voi a Benedetta Spada. Benedetta, a domani. A domani, grazie a voi. Appuntamento anche voi domani, subito dopo il GR delle 11. Vi aspetto. Buona giornata da Nicoletta Carbone.